Comunque ho provato in banda laterale e spingere altrettanto questo microfono a valvola, Oh, allora, ripeto, quello qua è il secondo passaggio, praticamente più bassa, questa va benissimo. Se alzi è troppo potente, verso la partita, magari non sta andando, va bene, non lo so, boh, fai questa prova, vediamo un po' cosa dice Sandro. Così per me va benissimo, perché siamo in locale, ma in lontananza va molto meglio se sono lì, però fa una chiamata. No, visto che è sempre così, no, se lo sollevo poi è satura troppo. Ah, dicevo che in banda già va, dovrei provare, adesso quando posso lo cerco, un microfono con la membrana un po' più grande, per acquistare qualche basso in più, perché questo qua è classico, l'MC60 tende ad avere la modulazione piatta, metallica. Ci vorrebbe, devo cercare uno di quei microfoni a membrana, con la membrana un po' larga, vedere un po' se riesco a fargli dare un po' di bassi. Sì, due secondi arrivo. Eccomi qua. Ecco qua. Ci siete? Ci sono. Ecco, fatto, non so. Ma gli altri lo sono andati a finire, mi abbasso qua. Ok. Passiamo per poco qua. Ok. Niente, va. Claudio, andate a mangiare. Il grande, ci sei Antonio? Sì, acca, sono al computer un attimo. Ok, no. Comunque, mi confermi l'acquisto? Vabbè. Va bene, ok. Va bene, allora, quando arriva, il mio numero ce l'hai? Vabbè. Ma poi sta per entrare in Facebook, Adesso me lo dici un'altra volta, quando arrivo piglia il martello e lo schiaccio tutto e tu. Mamma mia, ma sei cattivo, ragazzi. Avanti, buon bolino, ci sei? No, c'è un parcheggio prima. E visto il tempo va cambiato, primo settembre, acqua, vento, freddo. Ora io ci sentiamo dopo, visto che non c'è nessuno, mi assento, vado a mangiare qualcosa. Io ancora qua. Io sono qua in quel X un attimo, riprendo fra 5 minuti. Ah, sempre mangiando stai? Io ho una cosa di fumare, Massimiliano, ho sempre mandigende. Mandi in fallimento all'azienda così? Non so, mi sa che ci vuole più per mangiare che per fumare, va. No, per mangiare la sigaretta non ne frega niente. Zero sotto zero. Ma per adesso non mi interessa, perciò non... Adesso non esagerare. Provando a collegare un altro microfono così al volo, ma non so che porcheria ne possa uscire. È proprio un accrocchio che sto facendo. Adesso provo a collegarla. Tu già preferiresti di più fumato una sigaretta o mangiato un bue? Ah vabbè, la sigaretta di certo non è salutare, ma neanche mangiarsi un bue è salutare. Per modo di dire, non è che ti mangiamo bue veramente. A me diciamo che ha dato troppi problemi, ma adesso sto benissimo. Guarda, ti dico, forse mi bevo una birra o due, anche tre, va. Adesso non si allarga. Facciamo due avanti. Prendiamoci a dopo, dai, ci siete, ma che mi assento una ventina di minuti? Che troppo, eh? 25, bene va. Ah, che 35. Vabbè, dai. Perché proprio per volervi bene, ma una trentina di mezz'oretta, E che? Vai. Adesso vediamo se riesco a rovinare l'altro microfono. Tu chiamalo, c'è problema.